Letture di Radio 24. A Londra si moltiplicano le scuole islamiche che insegnano ai bambini come insultare gli ebrei e come applicare le punizioni a chi infrange la Sharia. Lo rivela un'inchiesta della BBC. Come si mozzano una mano e un piede a un criminale? In alcune scuole islamiche dell'Inghilterra, i bambini e i ragazzi che frequentano le lezioni serali o del fine settimana studiano libri dove si spiega la punizione che tocca a chi infrange la Sharia. Allievi dai 5 ai 18 anni imparano ad applicare la pena alla quale sono condannati il ladro al primo furto, taglio della mano, e il ladro recidivo, taglio del piede. Oppure la donna colpevole di adulterio, la lapidazione, e l'uomo accusato di omosessualità, la morte. E la sorpresa non finisce qui, perché ai giovani è riservato anche un indottrinamento anti-ebraico. Lo scopre la BBC, che sotto copertura ha mandato un ricercatore di lingua e costumi arabi a controllare i contenuti degli insegnamenti impartiti in un network di 40 istituti, con 5.000 iscritti nel Regno Unito, autorizzati a divulgare il curriculum scolastico dell'Arabia Saudita. Le immagini, riprese di nascosto dalle telecamere della trasmissione Panorama, sono chiare. Taluni testi estratti dagli scaffali di una biblioteca di questi centri educativi sono un compendio di tradizioni islamiche, ma vi aggiungono sia indicazioni politiche sia offese molto pesanti contro gli ebrei. Porci e scimmie, i sionisti vogliono impadronirsi del potere in tutto il mondo. L'esperto di Corano, Neil Robinson, ha rilevato che un tale modo di impartire gli insegnamenti islamici conduce a pericolosi sentimenti antisemiti. L'inchiesta della BBC ha indotto il ministro dell'educazione, Michael Gove, a promettere ispezioni nelle scuole chiamate in causa. Una mossa che, sebbene appoggiata dai movimenti musulmani moderati, rischia di infiammare l'antagonismo dei settori più radicali che rifiutano intromissioni del governo britannico. Ma il responsabile della politica scolastica vuole approfondire. Del resto, già nel 2007 era capitato qualcosa di simile. Libri dal contenuto razzista erano stati scoperti, sempre dalla BBC, in un istituto di Acton, riservato a ragazzi di fede islamica. All'epoca si era trattato di un episodio singolo. Il problema è che in 3 anni le scuole coinvolte sono diventate 40, con 5.000 allievi. Un campanello d'allarme. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Londra, lezioni di Sharia per i bimbi musulmani con insulti ebraici, dal Corriere della Sera del 23 novembre. Letture di Radio 24. In Etiopia ogni anno 300.000 bambini muoiono di malaria, morbillo, polmonite o malnutrizione. Ora un cartone animato li educa nella prevenzione e conoscenza delle malattie. E la giovane autrice riceve un premio destinato ai progetti più innovativi del pianeta. Dietro il sorriso lieve e la figura minuta nasconde l'energia antica della sua terra. Dall'Etiopia, Bruktavit Tigabu è volata fino a Losanna, nel cuore opulento della Svizzera, per ritirare il premio che Rolex ha assegnato per la prima volta agli Young Laureates, i 5 giovani autori dei progetti più innovativi del pianeta, concepiti per migliorare la vita delle future generazioni. 29 anni, la ex maestra elementare, cresciuta insieme ai genitori e ai 2 fratelli a Gergi, quartiere povero di Addis Abeba, oggi è a capo della casa di produzione televisiva Wits Kids Workshop, fondata 5 anni fa insieme al marito, con cui realizza Tseai Loves Learning. Tseai ama imparare. Lo show di pupazzi animati che a ogni puntata tiene incollati allo schermo fino a 5 milioni di bambini, nella capitale e nelle regioni rurali, tra le più disagiate della terra. Tseai, che in amarico, la lingua nazionale etiope, significa luce splendente, è la giraffa femmina, giovane e curiosa, che spiega ai bimbi e alle famiglie l'importanza dell'igiene personale e della prevenzione. Li aiuta a individuare i sintomi e capire le cause delle malattie. Il tema è cruciale. Ogni 12 mesi in Etiopia più di 300.000 bambini sotto i 5 anni muoiono di malaria, polmonite, morbillo, gastroenterite, malnutrizione. Secondo i dati contenuti nel rapporto sulla mortalità infantile della ONG Save the Children, nel paese del Corno d'Africa e in altri 5 stati è concentrata oltre la metà dei decessi complessivi del pianeta. Un genocidio silenzioso sotto gli occhi indifferenti dell'opinione pubblica internazionale. Nel mio paese i bambini hanno accesso all'istruzione gratuita solo a 7 anni, spiega la giovane imprenditrice. Prima di quell'età sono davvero pochi i genitori che possono permettersi di mandare i figli negli asili nido privati. Così i piccoli restano a casa o giocano per strada e quando cominciano ad andare a scuola è troppo tardi per imparare. Con il nostro programma TV intendiamo colmare questo vuoto. Per entrare nel cuore dei connazionali, l'autrice usa ironia e fantasia, con un prodotto letteralmente fatto in casa. Ogni episodio viene girato in salotto. Lei infila il braccio nel calzettone giallo, che termina con il muso della giraffa. Le dà anima e voce, davanti alla telecamera, mentre il coniuge compone le musiche e cura l'editing dei filmati. Lo spettacolo è nato 6 anni fa da un'idea mia e di mio marito. All'epoca insegnavo, ma i materiali didattici a disposizione erano davvero scarsi. Ogni pomeriggio dovevo inventare qualcosa di nuovo da portare a scuola la mattina seguente. Così abbiamo realizzato il primo episodio e l'abbiamo mostrato agli alunni, che hanno reagito con grande entusiasmo. Tra tutti gli animali possibili, la giraffa ha riscosso i maggiori consensi. Tranquilla e pacifica, un simbolo africano per eccellenza. Adoro il suo carattere. È giovane, curiosa, allegra e ha una grande voglia di imparare. Quanto agli argomenti, gli autori purtroppo hanno l'imbarazzo della scelta. Prima di decidere dove intervenire, consultano esperti e ricercatori. In molti casi l'urgenza della situazione sanitaria prevale sulla libertà artistica. Nulla va dato per scontato in Etiopia, dove esiste una sola rete TV, e i tubi catodici in molte regioni restano un miraggio. Una volta confezionato lo show, dunque, lei e il marito si occupano anche della diffusione. Organizzano proiezioni negli ospedali e nelle scuole, spediscono copie del programma nei campi profughi, talvolta caricano un televisore sull'automobile e raggiungono i villaggi rurali, dove decine di famiglie si accalcano intorno al piccolo schermo. Ora, i $50,000 del premio Rolex serviranno anche a produrre 6 nuovi episodi di It's I Loves Learning, focalizzati su malaria e gastroenterite, mentre la versione radiofonica del programma, già messa a punto, potrebbe raggiungere a breve 25 milioni di persone. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Emanuele Cohen e per maestra una giraffa, dall'Espresso del 25 novembre. Da un ricercatore e uno chef arriva l'idea della nutraceutica, una sintesi di nutrizione e farmaceutica. La loro prima proposta è quella dei Magnifici 20, ovvero la lista degli alimenti base più utili per la salute. Contro l'insonnia? Bastano 3 noci al giorno. Per combattere lo stress, 40 grammi di cioccolato fondente al dì per 2 settimane. Per disintossicarsi, invece, è bene fare una scorpacciata di rucola per 20 giorni. Sembrano i rimedi di una volta, invece sono molto di più. In 2 parole, cucina nutraceutica, mix di nutrizione farmaceutica. È la disciplina che studia come prevenire e curare le malattie mangiando. Ma è anche una moda sempre più diffusa tra gli amanti della tavola. E alcuni ristoranti si stanno già adeguando, proponendo ai clienti il menù nutraceutico, richiesto non soltanto dai salutisti. Perché scegliere la cucina nutraceutica non significa abbandonare i piatti golosi. Pronti a dimostrare ai fornelli che ci si può fare del bene andando a mangiare al ristorante, ci sono un ricercatore e uno chef. Il primo è Marco Bianchi, 32 anni, ricercatore della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Il secondo è Gabriele Godina, 34 anni, chef del ristorante Profondo Rosso di Monza e allievo di Gualtiero Marchesi e di Pietro Liman. Insieme hanno scelto di fondere l'alta cucina con la nutraceutica. Il mondo della scienza e quello della gola sono distanti solo all'apparenza, spiega Bianchi, autore del libro I Magnifici 20, i buoni alimenti che si prendono cura di noi. I Magnifici 20 sono i cereali, la quinoa, i legumi, gli aromi, i semi oleosi, i grassi vegetali, il pesce azzurro, cavoli e verze, i frutti rossi, il cioccolato fondente e alcuni prodotti internazionali come alghe, zenzero, soia e germogli. Meglio evitare invece carne rossa, insaccati, salumi e grassi saturi. Sono nemici della salute. Sono compagni di prevenzione e salute i frutti rossi, i cavoli e la famiglia delle crucifere, cavolfiori, broccoli, cime di rapa, rucola e i cereali integrali, ricchi di fibre e vitamine antiossidanti capaci di tenere alla larga sostanze nocive che introduciamo con altri alimenti. Non bisogna dimenticare le spezie. Curcuma, basilico, timo, prezzemolo e origano hanno forti poteri antitrombotici, antinfiammatori e antitumorali. Non basta però la selezione delle materie prime. Bisogna anche rispettare gli ingredienti con cotture adeguate, spiega Godina, e finire le preparazioni con un filo d'olio extravergine di altissima qualità, non deve costare meno di 15-20 euro al litro, che contiene in abbondanza tutte le sostanze capaci di curare il nostro organismo. Per la cottura, meglio usare il vapore, oppure cuocere in una padella antiaderente, non danneggiata. Basta ungere leggermente il prodotto da cuocere, facendolo saltare in una padella calda e per poco tempo, in modo che l'alimento conservi il più possibile le sostanze nutritive. Poi aggiungere aglio in camicia e rosmarino, con proprietà anticancro e disinfettanti. Le lunghe cotture e le fritture sono invece da evitare, perché dannose per fegato e stomaco. Troppo stressante controllare le proprietà degli alimenti e seguire le indicazioni? Ne vale la pena, dice Bianchi. Contro lo stress, poi, c'è sempre il rimedio della tavoletta di cioccolato. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Silvia Seminati, Nutraceutica, dal numero 46, 18 novembre, del magazine 7.